Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Oscar, eccoci, sono le 8:20 minuti, buongiorno. Eccoci qua. Io stavo telefonando, ma mio papà è morto, ma insomma, io col papà non ci troviamo, lui non dice le cose come stanno i PM, l'hai letto il Fatto Quotidiano? Sì, l'ho letto in rassegna stampa. Tuo papà lo dice invece agli inquirenti? Papà no, anche lui non c'è più. Ecco, appunto, siamo tutti noi, abbiamo risolto questo problema purtroppo, però insomma, vado prima dei santi perché faccio una azzardosa previsione, esploderà un casino tale per questa intercettazione del libro di Marco Lillo su cui oggi apre il Fatto Quotidiano con l'editoriale di Travaglio tra Renzi figlio e Renzi padre. Non devo stroneare delicatezze di un colloquio privato tra Renzi padre e Renzi figlio che finisce sui giornali, recentissimo tra l'altro, di marzo, in cui si capisce che il padre viene rimproverato dal figlio di non dire la verità a nessuno su se ha incontrato Romeo, Consip, cosa ha detto, non hai detto la verità a Luca Lotti, ci rimetterò le primarie, eccetera eccetera. Succederà un casino tale che l'abbiamo già vista sta cosa negli anni, mi pare di sì, e sarà sì, uguale. Io infatti quando l'ho vista ho detto ci aspettano 20 anni di berlusconismo, nel senso con le solite polemiche, le intercettazioni, un colloquio privato che finisce sui giornali. Però certo, come al solito, perché uno dice condanniamo, sì, certo, il tono privato di quell'intercettazione, ammesso, non concesso, al solito, è un po' diverso da quello pubblico, direi. Sì. Comunque non resta che appellarsi al nostro santo di oggi, ecco. Sant'Ubaldo di Gubbio, un tedesco trapiantato in Italia di nobile famiglia ma orfano, ma tedesco rigoroso, e tanto rigoroso che lo vogliono far vescovo. Siamo a Gubbio intorno al 1130 quando gli propongono di fare il vescovo, lui invece desiste, va dal Papa a Roma, dice no, io non sono di qua, non me la sento, le famiglie lottano troppo in questa città, in Italia tutti sono contro tutti. Non era molto diversa già all'epoca l'opinione dei tedeschi sull'Italia rispetto a quella di oggi. Invece poi glielo impongono, farà il vescovo per decenni, veneratissimo, salverà Gubbio dall'assedio del Papa Federico II, che naturalmente si intendeva meglio con i tedeschi con gli italiani, e dopodiché infatti il suo culto è ancora così forte che la processione dei ceri di Gubbio avviene appunto nel culto di questo santo tedesco trapiantato nella nostra Umbria. Oggi molti compiono gli anni, tra cui Mariotto Segni, Claudio Baglioni, Fiorello, Laura Pausini, quindi insomma c'è una panoplia di... A parte Mariotto Segni, ce ne sono tanti. Mariotto Segni, a me piace sempre ricordarlo come la faccia per bene del movimento di riforma referendaria del maggioritario italiano. Tutti coloro che lo accusano di essere un ingenuo, un impolitico, un non leader, il nocciolo dell'accusa che Berlusconi gli rivolse nel 94, no? Quindi diceva, visto, non hai abbastanza pelo sullo stomaco, hanno sempre fatto di lui comunque ai miei occhi un uomo degno di grandissima stima. Io mi onoro di esserne amico e naturalmente sì, è così, è proprio un uomo che non ha il pelo sullo stomaco degli altri, e anche per questo mi piace. Siamo alle 8:23 minuti. Oggi, Oscar, parliamo di un tema che, guarda, che interesserà moltissime famiglie italiane. Interessa molte famiglie italiane. Tra poco diamo anche qualche numero. Però sui giornali ci ha anche colpito questa vicenda di questa sentenza della Cassazione riguardante un SIC. Oggi non vi spaventate se sui giornali vedrete foto di gente col turbante, vestiti arancioni, pugnaloni lunghi, non c'è alcuna invasione. I SIC sono persone straordinariamente... Si parla dei SIC. Sì. Affidabili e positive. Sì. Però c'era questo SIC che a Mantova voleva portare un coltellaccio. Loro lo chiamano... Che è uno dei cinque simboli della fede. Si chiama Kirpan. Kirpan. Loro dicono non è un'arma, ma è un meroviglio. vero simbolo religioso. Si è arrivati fino in Cassazione per dire che non lo può portare per una questione di sicurezza pubblica. Ma la Cassazione ha stabilito che gli immigrati, in questo caso Sikh, devono conformarsi ai valori nostri. La sentenza dice testualmente: integrazione non significa rinunciare alle culture di origine, cioè non è l'assimilazione, ma al contempo riconoscere i valori del paese ospitante. Ma tu i valori li hai capiti? Quali sono i nostri valori? Io avrei preferito la dizione le leggi, che sono una cosa diversa, preciso, perché questo valore è un po' celoso. Detto questo, siccome la Cassazione intende le leggi, ma naturalmente i valori aprirà l'interpretazione scivolosa della giurisprudenza, come vedi tutti i giorni cambiamo temi ma siamo sempre lì in Italia, come ieri la troppa ampia discrezione della sentenza sui divorzi, oggi siamo alla troppa ampia descrizione di questo termine valori rispetto a leggi, che è inequivocabile. Detto questo, però, lasciami dire che rispetto ai tanti seminatori di dubbi di oggi, io credo che vada anche riconosciuto alla Cassazione il fatto che lo dice chiaramente, mentre la politica italiana non ha mai avuto il fegato e la dignità di dirlo in questi anni. Banalmente, insomma, appunto, come dice Emma Bonino in un'intervista a Repubblica, basta dire un coltello lungo non si può portare per questioni di sicurezza pubblica, con tutto il rispetto per il simbolo religioso dei Sikh, punto. Però ti ricordi quando andare abbiamo, sui valori quando abbiamo, è un argomento scivoloso. Ma per questo dico, ci vuole la politica, la legge non la mai stabilito. Noi viviamo in un paese nel quale, come ci ricordava quando era ancora procuratore a Venezia Carlo Nordio, lui dice: io, la mia interpretazione del codice è che qui a Venezia non si può andare travisati, con coperti totalmente dal velo, quindi se me lo segnalano intervengo d'ufficio. Nel resto d'Italia, comunque, qua a Milano abbiamo Monte Napoleone, invece non succede niente. Questo per dire che, come sempre, siamo in un'Italia dove poi PM che vai, legge che trovi, ecco. Ma noi vi abbiamo chiamato per un altro motivo, soprattutto il nostro Gianluca Nicoletti, che è collegato da Roma. Buongiorno, ciao Gianluca. Ciao, buongiorno. Posso dire una cosa? I valori. Ma se è un valore, non se lo può fare di plastica il coltello, il Sikh? No, ma se è simbolico, se è un oggetto simbolico, viene ad essere tagliente, appuntito. Porta bello di un simulacro di coltello. Crocifisso può portarlo di legno, di plastica, di metallo, di quello che vuoi, d'oro massiccio. Se lo fanno di plastica e vanno col coltello di plastica. Allora, subito accusato di blasfemia dai Sikh. Perché è un simbolo. Ma insomma, deve essere ritagliare e offendere, è simbolico. E allora non deve avere le caratteristiche delle armi, ma solo quella di un simbolo. Gli accademici di Modena hanno uno spadino finto di latta e lo portano al fianco, nessuno dice nulla. Anche qui i ragazzi dell'Atelier, la scuola militare di Milano, è così. Vabbè, ma questi valori, hai capito quali sono? Quali sarebbero i tre valori occidentali a cui ma non esistono valori assoluti. I valori sono soggettivi, ci sono le leggi, ha ragione Oscar. Grazie a Dio, se no saremmo uno stato teocratico. Quella sai, la famosa teoria, la famosa poesia, scusami, no, i valori del Papa. Io credo nella zecca onnipotente e nel figliolo suo detto zecchino. E così via, è tutta così. L'antipapista qua, Oscar, è l'antipapista, che è nel soldo uno e trino, continuava così, una meravigliosa poesia. Dobbiamo parlare di questo tema e di una legge, la legge dopo di noi, che tra l'altro Radio 24 ha molto appoggiato, ha molto seguito. Tantissimi italiani che hanno una vaga idea della serietà e gravità di questo problema hanno sperato che fosse la svolta tanto sottolineata da chi l'ha votata, e adesso si tratta di farne un bilancio e ahimè. Diamo due numeri, ieri li riepilogava molto bene la stampa: 3.200.000 italiani sono persone con gravi disabilità, di queste 230.000 persone hanno un'età avanzata, con i genitori con un'età avanzata, per cui tra poco, tra non tanto, queste persone dovranno affrontare la vita senza i genitori, senza alcuno che può provvedere loro. Perché siamo ancora al fatto che è la cura parentale l'unico recinto di sostegno a chi si trova in questa condizione. Per il 70% dei casi è così. Allora, insieme a Gianluca Nicoletti, Gianluca che ieri anche sulla stampa ha raccontato, come racconta, ha raccontato in un film, racconta in libri, la storia, il rapporto anche con tuo figlio Tommaso. Ho le mani sul volante, come dici te comunque, esatto, in questo momento. E insieme anche Antonio Nocchetti, che vogliamo salutare, presidente dell'associazione napoletana tuttiascuola.org. Buongiorno Nocchetti. Buongiorno a lei, buongiorno a Gianluca. Allora, intanto Gianluca, perché si può dire, o meglio, si può dire che questa legge è stata al momento un che cosa? Un fallimento, una partenza falsa? Guarda, la legge l'ho anche io molto appoggiata, ho indetto convegni, ne abbiamo discusso. La legge nel suo apparato è una legge che doveva esserci, doverosa, è una legge civile. Il vero problema, nel reportage della stampa è anche sottolineato in maniera molto chiara, è che una volta fatta la legge non è che si chiudono le porte, dice, beh, noi l'abbiamo fatta, adesso avete la legge, non scocciate più. I milioni di famiglie che sono citati in quei numeri, in realtà nemmeno probabilmente hanno nessuna informazione di quello che cosa cambierà a loro. La legge dice, noi abbiamo dato i soldi li diamo alle regioni, poi le regioni ci faranno quello che vogliono. Lì è proprio il problema. I soldi che possono arrivare, dei soldi, pochi o tanti che siano, può essere anche un dato di fatto. Che poi questi soldi si trasformino in realtà in degli strumenti culturali innanzitutto, perché deve essere uno strumento culturale. La famiglia deve essere sradicata dall'idea che finora era sedimentata, che il figlio grullo, i figli grulli, chi ce l'ha si li trastulli, cosa del genere. Quindi abbia l'idea principale, che è qualcosa da tenere nascosto, chiuso, abbarbicato il più che può a se stesso, fino a che il momento che non ce la farà più. Poi quel momento il figlio diventerà una retta per qualcuno che vivrà sul mantenimento di quel figlio. Le cifre sono anche abbastanza notevoli, mi sembra dai 150 ai 200 euro al giorno, un bel business, sai. Noi vediamo sempre le notizie dal nostro punto di vista. Tu leggi la notizia di Isola Capo Rizzuto in una certa maniera, io lo leggo in un'altra maniera, dico, vedi, chissà quanti stanno attrezzando al business, ecco, del mantenimento in vita dei disabili. Perché ci pensi, quando è la carne la tua carne, ci pensi. Tu guardi ogni giorno tuo figlio e dici, ma quando non ce la farò più io di alzarmi la mattina a portarti a scuola, portarti in palestra, portarti a spasso, chi avrà la stessa costanza di farlo? I soldi ci sono, avrà dei soldi, farà una grande impresa, un grande business, ne metterà tanti insieme di tutti i tipi, senza nessun rispetto alla specificità, e su quello farà il suo affare. Purtroppo è così la storia, Oscar, che di Isola Capo Rizzuto sui migranti ci racconta Gianluca, ricorda proprio questo, che laddove poi ci sono tanti denari, tanti soldi, poi c'è la possibilità di fare del business. E tanta gente inerme, che non tanta protesta. Gente inerme, certo. Purtroppo il business è dietro le porte. E secondo me rivela anche poi la debolezza, per non dire altro, mi limito a dire la debolezza, perché su questi temi bisogna andarci con i toni mai alzati. Chi alza i toni di solito poi specula politicamente o dal punto di vista mediatico, però dico la debolezza della tesi di chi respinge sempre il sospetto, la necessità di approfondire, distinguendo bene le responsabilità di fronte al fatto che flussi finanziari di questo tipo e tutta la gestione dei migranti in realtà attiri corruzione da una parte e grandi cosche e interessi malavitosi dall'altra. Perché poi quante volte scopriamo che è vero le indagini delle procure, puntualmente lo scopriamo adesso, e tocca leggere, come hai giustamente sottolineato tu stamattina nella segna stampa, erano da anni, secondo le indagini, da dieci anni. Capite che è una legge che è, ma come, il più grande cara europeo, scopriamo che è da 10 anni nella mano dell''Ndrangheta. Poi ci si lamenta se l'Unione Europea non dà i soldi. Che il vescovo dice, no, ma io l'avevo capito che quel parroco... Ah, l'avevi pure capito? Ecco, insomma, no. Allora, detto questo e tornando all'argomento, questo fenomeno, cioè il fatto che al di là della bellezza del nostro sistema sanitario nazionale, giustamente in alto nei ranking internazionali, non stiamo discutendo di questo. La nostra resti una società profondissimamente incivile di fronte al tema dei deboli e dei disabili. Quando io dico tema dei deboli e dei disabili, mi è capitato in famiglia una cosa che mi ha messo di fronte a una parete verticale che io ignoravo, cioè le protesi tecnologicamente avanzate per chi ha serissimi problemi, cioè proprio serissimi, intendo dire serissimi, non voglio aggiungere particolari perché devo pure tutelare giustamente la privacy della persona di cui sto parlando. Ho scoperto che lo Stato non le dà per niente, cioè ti dà quella di legno di 30 anni fa, altrimenti paghi tutto tu. Le cifre sono tali per cui, guardate, non è uno di basso reddito che non se la può permettere, ma neanche uno intermedio, quello con la sensoristica avanzata. E comunque il concetto perché è allora, se questo hai per soldi dire, bene, altrimenti no. Per dire, qui ci sono le disabilità fisiche, ci sono quelle psicologiche, ci sono quelle complesse, ci sono... Allora, questa roba qua riguarda la civiltà e noi siamo rimasti troppo indietro. Io seguo Gianluca e lo ammiro da anni, perché ammiro il fatto che lui ci mette anche sotto una persistente e non intrisa di superiorità etica, ma persistente richiamo al fatto che innanzitutto è un grave problema culturale. Noi questa gente la escludiamo automaticamente nel nostro vivere, nella nostra percezione comune di sani, dal fatto che sono una delle cose fondamentali della nostra vita. Io non faccio altro che toccare con mano questo. La politica si aggrega, mm-hmm, e poi il rischio che ci sia tutto delegato a ONG, magari con qualche interesse proprio, io lo vedo come conseguenza, ma lo vedo come conseguenza non perché l'uomo è portato al male, perché noi non riusciamo proprio a introiettarla dentro la realtà di chi ha disabilità e di come si fa ad occuparsene, distinguendo caso per caso dal punto di vista umano. Ieri sulla stampa Antonio Nocchetti è stato definito, e non so se queste definizioni poi diano fastidio, facciano piacere, una sorta di santo laico che sì, si occupa, dedicando la vita a aiutare i disabili, con l'associazione Tutti a Scuola Onlus. Non vorrei entrare così, come dire, in scivolata, Nocchetti, o con un fallo a gamba tesa, per usare un gergo calcistico. Non so se la definizione le è appropriata o se la definizione le piace, però ci dica che cosa fa in realtà. No, io vorrei parlare di quello per il quale mi avete coinvolto. Sì. Su questa cosa, quella definizione là, insomma, è una cosa che i giornalisti scrivono bene, poi hanno un'immaginazione. Io sono una persona normalissima come tutti voi, come tutti quelli che ci ascoltano. Io vorrei dire un paio di cose, proprio come si direbbe una volta, a prescindere, sul dopo di noi. La legge sul dopo di noi è una legge che nasce con delle difficoltà intrinseche, e cioè nasce dalla difficoltà di quantificarne in modo chiaro i beneficiari. Questa cosa non la dico io, l'ha detta il presidente dell'Istat il 5 aprile del 2016 in Commissione Affari Sociali. Quindi forse fare un'anagrafe accurata non sarebbe male. Ma non è che non sarebbe male, questo è un prerequisito essenziale. Noi non possiamo parlarci addosso. Se noi stabiliamo, come diceva prima Gianluca Nicoletti, di trattare un tema in modo pacato, perché si parla della pelle, del sangue, delle lacrime della gente, allora bisogna iniziare a pretendere anche da chi si occupa di queste cose, quindi la nostra classe politica, che lo facciano con altrettanta attenzione. E allora, con la stessa attenzione con la quale ci si muove se si prende un cristallo di Boemia tra le mani, bisognerebbe iniziare a studiare. Studiare significa, per uno come me fa il medico, acquisire degli strumenti, provare a capire, approfondire, capire dove sono le debolezze. Ma le debolezze di questa legge sul dopo di noi erano state chiaramente esplicitate dal presidente dell'Istat Giorgio Alleva, il quale aveva consegnato una nota che consiglio a tutti gli appassionati di lettura di approfondire, perché sono 15 paginette dalle quali si capiscono tante cose. E quindi, per esempio, si capisce che la legge che stavano per tirar fuori era una legge che nasceva con due limiti sostanziali: la quantificazione del numero di disabili e la qualificazione, quindi la definizione delle persone che avevano bisogno e che potevano essere sostenute a questa legge. Poi si può entrare in quel campo vischioso che è quello dei fondi, delle cose. Anche qui, insomma, a pensar male si fa peccato, ma diceva il grandissimo Andreotti, ci si azzecca sempre. È evidente, ma non lo diciamo noi, lo dicono tutti, si capisce da tutte le parti che questa è una legge che è nata con una pressione forte, legittima, e sottolineo legittima, delle assicurazioni che volevano fare lobbying per poter ottenere una maggiore detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie. Ben venga, ma bisogna ancora una volta spiegare a chi riguarda questa legge. Riguarda quelli che hanno un reddito che parte da 20.000 euro all'anno in su? Allora, se riguarda queste persone, ben venga l'azione lobbistica delle assicurazioni. Ma se invece dobbiamo iniziare a guardare negli occhi le persone con disabilità povere, quelle che, non lo dico io, lo diceva il presidente dell'Istat, probabilmente sono già 37.000 in questo momento abbandonate, bene, e che non hanno reddito. Allora, se vogliamo iniziare così, la legge sul dopo di noi è una roba terribile, però nella magnifica capacità della nostra politica di scrivere leggi piene di contenuti che non si verificano, c'è un articolo che parla della relazione annuale che il Parlamento dovrebbe fare sullo stato di attuazione di questa legge. Bene, io invito voi a chiedere la relazione. Ormai siamo a un è passato un anno. Allora, dalla relazione ripartiamo tra un attimo, perché dobbiamo fare 2 minuti di pubblicità. State con noi, 800 24 00 24, ripartiamo tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel. L'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 17 al 19 maggio. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, siamo qui alle 8:43 minuti. Gianluca, il dottor Nocchetti ci ha posto una problematica. È una legge che si può definire anche per i redditi alti, perché è una problematica che ha posto, quella economica. Sinceramente, sai che non so risponderti. E se non so risponderti io è abbastanza grave, perché l'ho seguita, l'ho vista. Non ho ancora visto qualcuno che materialmente mi dice quella legge può fare questo. Non è che non ci stia pensando, è il mio pensiero quotidiano. Nel mio piccolo, con alcune altre famiglie, ci stiamo cercando di organizzare. Stiamo cercando di individuare un posto dove potranno andare i nostri figli. Cerchiamo di assumere strumenti tecnici per capire come organizzare la vita dei nostri figli, finché ancora noi avremo testa. Ma vedi che in tutto Angelica, questo tu siamo soli. Ci racconti proprio questo, cioè che c'è quel gap culturale, quel muro da infrangere, per cui che cosa fa uno? Poi un po', scusa se uso questa parola, anch'io ho avuto un familiare, magari anche nella vergogna si rimane da soli, nella incapacità di fare sistema, di fare rete, nella voglia di vivere le cose nella propria intimità, che poi vuol dire anche nella propria solitudine. Io riparto, do ragione a Oscar che mi dà ragione, il problema culturale è fondamentale. Guarda, ti dico, io ormai di questo tema me ne occupo capillarmente da anni, ho fatto in necessità virtù. Ho scritto 2 libri, ho fatto un film, ho girato tutta Italia a cercare le famiglie, a vedere che succedeva. Dal nord al sud ho visto esattamente sempre la stessa situazione. Qualunque sia lo stato economico delle famiglie, il livello culturale, perché andando avanti, man mano che i figli crescono intorno a te, naturalmente c'è un cordone di isolamento. Anche gli amici più amici alla fine dicono, ma poverino, ha il suo problema. Quando cominci a disertare tutte le cene, disertare tutte le vacanze, sanno che comunque ti porti dietro sempre qualcosa che... Per quanto siano amici, ti vogliano bene e sono disponibili, ti rende diverso dagli altri. È inutile questo. Alla fine ti ritrovi solo con quelli che hanno il tuo stesso problema. E anche fra questi poi c'è una differenziazione enorme. Quando si parla di disabilità, in questo caso il problema più grosso è per i disabili psichici, non perché appartenga a questa specie, perché alla fine quando la tua testa non ti rende autonomo, sei veramente... materia di scambio per qualunque tipo di patteggiamento osceno, capisci? Come non posso nemmeno pensare un attimo cosa potrebbe accadere mio figlio se io mi alzassi la mattina e non fossi più in grado di occuparmi di lui. È una persona totalmente inerme, grande, bello, forte, bellissimo, ormai è diventato un personaggio, lo conoscono tutti, ma io devo andare a negoziare con la scuola di mio figlio se ho un problema con mio figlio come qualsiasi altra persona. Non crediate che questo mi pone in una condizione di vantaggio. Sono il grande raccontatore della neurodiversità in Italia, ma ho gli stessi problemi di tutti gli altri, esattamente così. Nulla ti assolve dal fatto che avrai comunque un problema. E fare una legge senza spiegare alle famiglie come comportarsi significa andare a vedere, ci vadano i politici uno per uno, le famiglie, così stato io, madri ormai senza nemmeno più un briciolo di voglia di vivere, con figli vicino che hanno 45-50 anni, che li tengono chiusi a chiave dentro casa, perché ancora attorno a loro c'è un tal pregiudizio, per cui loro preferiscono, convinte che la cosa migliore del loro figlio sia quello, tenerlo isolato dal mondo. Proteggerli finché si può. E poi, però un giorno quella madre sarà chiaro, cadavere e quel figlio sarà lì a guardare il cadavere e finirà così. E qualcuno se lo prenderà e si prenderà i 200 euro al giorno e dirà, si fregherà le mani, dice bene, comincia l'affare per me. Ecco, questo è il discorso finale alla fine. Mi dica qualcuno che non è così, perché vedo oggi sono tutti arrabbiati, quelli che hanno sostenuto la legge, anche amici miei, tutte le vergini vestali, Dio, come dite questo, come osate? Beh, portatemi qualcuno che mi dica esattamente da oggi cosa devo fare secondo i termini di questa legge di diverso di quello che faccio per mio figlio. C'è Davide che ci chiama da Milano. Buongiorno Davide. Buongiorno. Sì. Io mi chiamo come interessato doppiamente, sia dal punto di vista privato, perché ho un familiare che ha una disabilità grave, e come diciamo addetto ai lavori per quanto riguarda la parte più prosaica, diciamo, no? Quella più economica. Io ho studiato la legge dopo di noi, sono stato ho intervenuto con alcuni professionisti e, che dice? E anche con notai, sono andato a dei convegni. Devo dire che è un'idea, prima che legge, è un'idea, una proposta che è nata con le lodevolissime intenzioni. E sposo quello che ha detto dottor Nicoletti, ha un po' paura di portare fuori da quello che è il nucleo del privato, del familiare, quelle che sono le problematiche, con il rischio che poi si rimanga soli. I genitori hanno una forza di vivere enorme, i miei genitori sono molto anziani, con mia sorella stanno tutto il giorno finché la forza gli può resistere per ho capito, però appunto... c'è un problema dal punto di vista economico, io dico, adesso sì. Vengo al dunque perché sennò vi porto via del tempo. La legge Zampanini nasce con uno spossessamento di una parte di un patrimonio e con l'identificazione di uno scopo, correggetemi se sbaglio. Io ho studiato questa cosa per una problematica concreta di alcune persone e ho notato che a livello legislativo manca, per quanto riguarda lo scopo, una finalità giuridica, un'identità giuridica di quella che è l'istituzione di quello che sarà la persona che dovrà gestire questo patrimonio per quando non ci sarà più il donante e quando ci sarà solo la persona che dovrà beneficiare di questo scopo. E secondo me questo è il grave problema, il grave limite di questa legge che l'ha studiato nel concreto dopo. Va bene, Davide, la ringraziamo per questa segnalazione. Oscar Nocchetti punta molto sull'aspetto economico, ma non solo. Però Nocchetti, quante di quelle famiglie che lei vede tutti i giorni fanno il discorso che ci faceva Gianluca Nicoletti? Tutte. Assolutamente, tutte quante, a prescindere dalla condizione sociale. Nicoletti ha perfettamente ragione. Non se ne è accorto nessuno che esista questa legge, ma d'altra parte, sempre nella nostra macchinosità, c'è un articolo di questa legge nel quale si parla della necessità di avviare campagne informative. Ovviamente, e mi scuserete la ripetizione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per cui se da un lato si dice che bisogna informare gli italiani che vivono nella solitudine che esiste questa legge, dall'altra parte si dice informateli a bassa voce dicendolo nell'orecchio a qualcuno. È esattamente così, stiamo girando in tondo intorno a un problema fondamentale. Infatti, ma perché se la legge c'è, ma chi non l'applica? Cioè, Gianluca ci ha detto le regioni hanno i soldi, ma chi non l'applica? Cioè, dove sta l'inghippo per cui io che ho un parente, una persona disabile, voglio chiamo la regione, e dove sta l'inghippo per cui nessuno... È che si sta organizzando, che in realtà sta organizzando il proprio business personale di mantenimento, perché sicuramente qualcuno lo sa, qualcuno è ben in contatto, ecco. Qualcuno è pronto a intercettare i fondi, qualcuno si sta organizzando. Guarda che discorsi fra le righe li sentiamo tutti, dai cominciamoci a mettere insieme, facciamo qualcosa, io me ne prendo 20, me ne prendo 30, poi prendiamo due stranieri, si stanno già preparando i pacchetti di mantenimento, guarda che sono tanti soldi, se tu li organizzi in maniera industriale, cioè senza porti il problema della specificità della disabilità, ne metti tanti in un bel posto, certo. E li mantieni, è un bel business, crei una struttura, prendi i fondi e poi li metti lì. Beh, quello che Preti hanno sempre fatto dall'inizio della storia dei tempi, scusami se lo dico, perché gran parte di questi desaparecidos da 50.000 a 200.000 secondo le fonti non sa che fine ha fatto, sono da qualche parte dove nessuno nemmeno si prende più la cura di riferire lo stato di esistenza e di benessere di queste persone, stanno da qualche parte, sicuramente qualcuno li mantiene e sicuramente qualcuno prende fondi per mantenerli. Caro Oscar, qui insomma ci ritroviamo spesso a dire mancano le leggi, quando vengono fatte le leggi vengono fatte o non vengono applicate. Il problema non è fare una legge, il problema è non fare leggi manifesto. Le leggi manifesto servono a sgravare la coscienza e a riempire la bocca dei politici. Esatto. Questo è il punto, il problema è che bisogna fare delle cose quando si è in ritardo di decenni, come in questo caso. Primo, partire da una ricognizione fattuale e definizioni precise, come dice giustamente il medico. No! E appunto, se no banale, è una legge manifesto. La legge manifesto è una grida manzoniana e come dice chi l'ha firmata, abbiamo risolto il problema. No, non hai risolto niente. Ecco, tutto qui. Quindi c'è il modo di fare le leggi, dice tutto della volontà di porre fuoco sulla identificazione precisa e rigorosa e sull'identificazione, oltre che del problema, delle possibilità tecniche di offrire occasioni che non siano l'abbandono e la vita purtroppo levata a chi se ne occupa fino a che potrà, sia da parte dello Stato, identificando chi, dove, come, con quali soldi, sia dalla parte del privato sociale, identificando chi, dove, a quali condizioni e con quali controlli sulla percezione dei fondi, con quali standard di qualità, e ricordandosi, come ci dice sempre Nicoletti, che in questo caso l'individualità dei tipi di disabilità, è fondamentale. Noi stiamo parlando di esseri umani a piena dignità, anche se ce ne dimentichiamo e aboliamo questa loro condizione. Quindi non stiamo parlando di come si stocca carne bovina. Ecco, purtroppo a me dispiace usare questi termini così duri, però chi non ci si è imbattuto nella vita probabilmente non si rende conto di che cosa stiamo parlando, e gli altri se ne fottono, mi dispiace dirlo con brutalità. Nocchetti, siccome abbiamo un minuto, vuole dare un appello, visto che non so, tanto non ci ascolta nessuno, non ci ascolta neanche il legislatore, che la legge manifesto l'ha fatta, però cosa dovrebbe fare? Una cosa ci ha già detto, intanto una seria analisi e studio di numeri, persone, specificità eccetera, poi una cosa fondamentale che vuole lanciare come appello. Ma guardi, io direi di riprendere proprio l'audizione del professore Alleva, del presidente dell'Istat. Un appello a tutti i politici che in questo momento hanno un qualche responsabilità, a qualsiasi livello, andatevi a rileggere quell'audizione, poi pensate che quando ci sono dei numeri dietro ci sono delle persone, poi subito dopo bisogna trovare come le risorse e come spenderle senza far fare affari sulla pelle delle persone più fragili, e questo è un ulteriore problema. Io ritengo che il tema sia così terribilmente delicato che non possa essere più, ma una volta per sempre dovremmo diventare noi italiani capaci di mettere da parte completamente la tentazione pubblicistica, la tentazione di tirar fuori su tutte le leggi una slides on Twitter. Parliamo di queste cose con discrezione, in maniera partecipata il più possibile, e poi soprattutto in nome di quello in cui ognuno crede o non crede, proviamo a fare le cose. Applausi. Noi la ringraziamo. Alle 12 Gianluca, ovviamente. Ciao, con grazie, a dopo. Grazie di essere stato con noi. E poi niente, grazie a tutti. Sai cosa mi stupisce? Voglio proprio dirlo, sì. Che questa maniera invece di comunicarla così venga da uno che è stato nella GESCI come Matteo Renzi, perché fosse stato uno di un'altra tradizione culturale mi sarei stupito meno. Mi stupisce, non ci posso fare niente, non è una critica, ma lo penso. Ci troviamo domani, state con noi, grazie.